Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È già da quel dì che facciamo riunioni, quindi poi non le conosco. Sente il sindaco. Un'inversione là. Dove ci eravamo lasciati, cari ascoltatrici, cari ascoltatori? Ci eravamo lasciati praticamente in una situazione che più o meno, per quanto riguarda le notizie in Italia e all'estero, sono grosso modo quelle, sapete, come le più famose telenovele che tu le guardi dopo 1000 puntate che ti eri persa, e siamo più o meno punto a capo, anche se purtroppo alcuni problemi, alcuni argomenti si sono anche, diciamo, aggravati, come l'emergenza immigrazione. Siamo però più o meno rientrati tutti, si ricomincia a fine agosto, le vacanze finiscono almeno per la maggior parte, qualcuno ancora via, come per esempio Marino, manca all'appello, sindaco di Roma. Quello che avete sentito era il prefetto Gabrielli, appunto, della capitale, che era in corso da un giornalista che chiedeva: ma lei ha parlato con il sindaco Marino? Sapete che è di nuovo nella bufera per quello che è successo a Roma di recente, la cosa più recente, questi funerali faraonici del boss Casa Monica. E lui è ai Caraibi, che dice, negli Stati Uniti, che, insomma, più o meno in quella zona lì, e il prefetto Gabrielli ha risposto: sì, lo sento, tra un'immersione e l'altra, naturalmente un'immersione e l'altra di Marino, che resta in vacanza al momento. Comunque, intanto che aspettiamo il suo ritorno qui in Italia e sulla terra, anche si potrebbe dire, noi riprendiamo quindi il nostro appuntamento quotidiano tutte le sere con Effetto Notte, qui con me, voi ascoltatrici e ascoltatori, con la vostra attenzione e, se volete, naturalmente con i vostri interventi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, sia attraverso gli SMS al 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666. Direi che per cominciare, ricominciare, sicuramente l'argomento centrale di questi ultimi giorni e anche oggi è quello dell'immigrazione. Che riflessioni avete fatto in queste ultime ore, soprattutto con quello che è successo, appunto, nelle ultime ore, anche questo, oltre alla polemica con la Gran Bretagna, Bruxelles, la Gran Bretagna che vuole dare un giro di vite ai migranti anche europei, e poi quello che è successo in Sicilia con la coppia di pensionati uccisi da un immigrato. Ne parleremo ampiamente. Voi scrivete sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666 quali sono state le vostre riflessioni, insomma, sull'emergenza immigrazione nelle ultime ore. Ci saranno naturalmente molti ospiti anche questa sera, fra gli altri c'è anche il direttore del CARA di Mineo, che è il più grande centro di accoglienza d'Europa, è proprio di lì, è stato trovato l'immigrato che avrebbe ucciso la coppia e probabilmente ha anche dei complici. Però intanto, come sempre, la tradizione manteniamola, io vi racconto in sintesi la giornata all'inizio e poi cominciamo a approfondire gli argomenti con i diversi ospiti e anche con le vostre opinioni. Partiamo dunque dai titoli. Emergenza immigrazione, vertice europeo straordinario il prossimo 14 settembre e la Merkel dice: l'Italia va aiutata. La coppia uccisa in Sicilia, la rabbia della figlia che dice: Renzi ci chieda scusa, e Salvini rincara: tutta colpa dello Stato. L'Eni corre in borsa, euforia per la scoperta di un maxi giacimento di gas in Egitto, e a Tripoli scoppia un'autobomba proprio vicino alla sede Eni, nessun danno ma l'azienda è nel mirino, l'ISIS rivendica l'attentato. Cinema, è morto il regista Wes Craven, il papà dell'horror di Freddy Krueger. Calciomercato, conto alla rovescia, alle 23 si chiude. Partiamo quindi dall'emergenza immigrazione, ormai come la vogliamo definire, che per il primo ministro francese Valls sarà una lunga crisi, così l'ha definita. È stato quindi annunciato un nuovo vertice straordinario europeo per il prossimo 14 settembre. Nel frattempo in Italia divampa la polemica sul tema suscitata dalle parole della figlia della coppia uccisa nel Catanese da un immigrato, ospite appunto del centro di Cara di Mineo. Un delitto di cronaca che diventa un caso politico. Rosita Solano, figlia della coppia di anziani uccisi a Palagonia, tira in ballo il governo dopo che un 18enne ivoriano è stato arrestato per il delitto dei genitori. No, non ci sto. E il premier Renzi, Alfano, che si diano una mossa, perché io a Renzi lo voglio vedere a tu per tu. Sono stufa che si faccia viva e si prenda le proprie responsabilità. Matteo Salvini intanto accusa: non è colpa dello Stato, dice il leader della Lega, ma è colpa solo dello Stato. Così a 24 mattina. Si tratta di fare i recinti, i fili spinati, i ponti levatoi, si tratta di regolare, perché altrimenti da qui al 2050, come sentivo, ci sarà l'anarchia. Dal PD risponde il capogruppo Ettore Rosato. Io rispetto tantissimo il dolore di una figlia e su questo io non penso che noi dobbiamo aprire un dibattito politico, soprattutto polemiche. Il delitto che c'è stato è un delitto atroce e chi lo ha commesso deve essere perseguito con grande durezza. Le vittime Vincenzo Solano, 68 anni, e Mercedes Ibanez, 70, sono state uccise nella loro villetta di Palagonia, vicino a Catania, per una rapina andata male. L'uomo è stato sgozzato, la donna lanciata dal balcone. Livoriano, ospite del CARA di Mineo, indossava i vestiti di Solano sui quali sono state trovate tracce di sangue. Per la polizia non ha agito da solo. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E poi, vi dicevo, torneremo sicuramente a parlarne dopo ampiamente di questo. Intanto, in vista del vertice europeo, che vi dicevo, è Berlino che tende una mano all'Italia sull'immigrazione, per voce proprio della stessa cancelliera Merkel. La Commissione europea fissa dei paletti ben precisi sull'immigrazione in vista della riunione straordinaria del prossimo 14 settembre. Primo destinatario Londra. La libera circolazione dei cittadini europei, viene spiegato da Bruxelles, è parte integrante del mercato unico e un elemento centrale del suo successo. Certo, spiega il primo vicepresidente della Commissione Timmermans, serve andare rapidamente verso regole europee comuni sulla richiesta d'asilo. De tels drames qui s'ajoutent malheureusement à beaucoup d'autres. Timmermans parla a Calais in visita con il premier francese Manuel Valls e ricorda: non dobbiamo lasciare la porta aperta a xenofobia e populismo, tema questo che riprende la cancelliera tedesca Angela Merkel. Non è giusto, dice, che solo alcuni paesi si facciano carico dell'accoglienza, serve più solidarietà, come non è giusto che l'Italia debba occuparsi di tutti i migranti arrivati. Bene, regole europee sul diritto d'asilo, commentano da Palazzo Chigi, rimandando alla posizione già espressa da Renzi per un superamento del trattato di Dublino. Ora, aggiunge Alfano, si comprende che l'Italia è soltanto luogo di transito, il vero approdo sono i paesi del nord. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E intanto restano tesi i rapporti appunto da Bruxelles e Londra dopo le dichiarazioni della ministra inglese, che ha detto, no, che vuole dare appunto un giro di vite anche all'immigrazione di cittadini europei, e di questo parleremo dopo anche da un punto di vista del diritto europeo, cioè la Gran Bretagna può prendere una decisione del genere, e se la potesse davvero prendere la Gran Bretagna, poi che cosa faranno altri stati? Dopo, detto, ci torneremo. Invece, spostandoci adesso, in qualche modo restando anche all'estero, in Libia, con l'autobomba che è scoppiata a Tripoli, proprio vicino alla sede dell'ENI. Per fortuna non ci sono stati né morti né feriti, si sono verificati soltanto lievi danni ad alcuni uffici della sede. Così il portavoce ENI alla stampa in merito all'autobomba esplosa oggi pomeriggio nel centro di Tripoli, di fronte al quartier generale della compagnia petrolifera Melita Oil Company, joint venture al 50% tra ENI e l'ente libico National Oil Company. A riportare la notizia al sito di informazione Alvasat sono stati alcuni testimoni oculari, che hanno poi dichiarato che l'autobomba avrebbe danneggiato solo parte del primo piano dell'azienda. Non si hanno al momento altre informazioni sull'esplosione. Una strana coincidenza lega però questo triste evento alla scoperta ENI di ieri di un grosso giacimento di gas in Egitto. Daniela Abrunzo, Radio 24, il Sole 24 Ore. Tra l'altro, secondo il sito Libia Herald, l'ISIS a Tripoli ha rivendicato questo attentato. Intanto l'ENI, abbiamo parlato dell'ENI, festeggia in borsa proprio dopo la scoperta del maxi giacimento di gas in Egitto, quindi chiusura più 1,5% per il cane a sei zampe, in una giornata opaca per il FTSE MIB, che chiude in calo dello 0,2%. E restando all'estero, torna ad alzarsi lo scontro in Ucraina, proprio mentre la legge che concede più autonomia ai territori dell'est filorusso dovrebbe cercare almeno di accelerare la fine della guerra. Il passaggio in prima lettura della riforma costituzionale che conferisce maggiore autonomia ai territori dell'est ha scatenato la violenta protesta dei partiti nazionalisti e dei gruppi paramilitari che li sostengono. Il primo a muoversi è stato il leader del partito radicale Oleg Klyashko, che con alcuni deputati ha occupato la tribuna del Parlamento ucraino per impedire il voto. Poco dopo, alcuni esponenti del gruppo di estrema destra Pravi Sektor sono intervenuti accanto alla manifestazione in corso da questa mattina nella capitale ed hanno bloccato con delle auto la via Grushevsky. tedeschi, quella che conduce al Parlamento, preparandosi ad affrontare l'inevitabile intervento della polizia. Lo scontro è puntualmente avvenuto ed è stato durissimo, 3.500 agenti schierati a fronteggiare circa 300 estremisti molto determinati. È in questa fase che un ordigno è stato lanciato contro gli agenti, provocando numerosi feriti, uno dei quali è morto poco dopo in ospedale. Gli scontri di oggi sono emblematici della situazione di un paese che cerca di affermare la sua identità nazionale, fronteggiando una gravissima crisi economica, lacerato tra la minaccia separatista a est e l'estremismo di destra, che è stato il braccio armato della rivolta e ora rifiuta di rientrare nei binari di un confronto democratico. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E in Cisgiordania è stato rilasciato Vittorio Fera, l'attivista italiano arrestato dall'esercito israeliano. Il rilascio è venuto su cauzione, con un prolungamento delle indagini fino al prossimo 8 settembre. L'attivista italiano del Movimento di Solidarietà Internazionale, che si chiama ISM, pro-palestinese, era stato arrestato venerdì scorso dall'esercito israeliano nel corso di scontri in Cisgiordania. Secondo l'accusa avrebbe tirato sassi, attaccato l'esercito israeliano, ma l'ISM, l'associazione di cui fa parte, ha detto che non ci sono prove. Secondo il movimento invece Fera è stato fermato mentre con un pacifico gruppo di dimostranti internazionali stava riprendendo la scena di un soldato israeliano, scusate, che stava aggredendo un ragazzino palestinese con un braccio ingessato. Adesso andiamo sulle notizie italiane. A Roma il prefetto Gabrielli ha preso servizio come commissario per il Giubileo. Questa città, e mi riferisco a Roma Capitale, ha un solo sindaco, che è un sindaco che è stato eletto dal popolo, che ha ricevuto il mandato dal popolo, e tale è fino a che questo sindaco rimarrà in carica. Franco Gabrielli interviene e prova a fare chiarezza dopo le polemiche seguite alla decisione del governo di affiancarlo ad Ignazio Marino nella gestione dell'amministrazione capitolina dopo la bufera di Mafia Capitale. Il prefetto esclude una sua candidatura a sindaco e assicura che in Campidoglio non ci saranno diarchie o consolati. Non mi limiterò però a fare il notaio, e se le mie indicazioni verranno disattese ho il potere di sciogliere il comune, avverte Gabrielli, che oggi ha partecipato ad un primo vertice sul Giubileo con il vice sindaco Causi. Quest'ultimo ha definito esagerate le polemiche per i 18 giorni di ferie presi in un momento molto delicato per la capitale dal sindaco Marino, il cui rientro dagli Stati Uniti è previsto per mercoledì sera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso l'economia, con l'inflazione che è stabile ad agosto, è a 0,2% sullo stesso mese del 2014, secondo l'Istat, questo stesso tasso di giugno e luglio 2015. E poi la cronaca: un ragazzo di 27 anni a Vicarello, in provincia di Livorno, ha investito con la sua auto una donna di 54 anni che stava facendo jogging, l'ha uccisa, poi è fuggito e ha simulato il furto della sua vettura, ha praticamente telefonato ai carabinieri per dire che la sua auto era stata rubata, ma è stato poi arrestato. Lutto nel cinema: è morto a 76 anni il regista Wes Craven, maestro dell'horror, autore di Nightmare e di Scream. Con i suoi film ha terrorizzato intere generazioni, creando personaggi come Freddy Krueger in Nightmare, e fece anche debuttare Johnny Depp. Per chiudere, il calcio, con gli occhi puntati soprattutto sul calciomercato. In queste ore si stanno infatti compiendo le ultime mosse, si stanno prendendo le ultime decisioni. Chiude alle 23, ma c'è ancora tempo per le sorprese, quindi ci collegheremo proprio all'ultimo possibile, insomma, verso la fine della trasmissione, così per avere notizie possibilmente quasi definitive. Direi per il momento di, come al solito, di aggiornare chi sta viaggiando. Voi continuate con le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Note e anche con gli sms al 349-238-6666 per dire in questi giorni, soprattutto con le ultime notizie, quali sono le vostre riflessioni sull'emergenza immigrazione. Ringrazio tutti quelli che danno il bentornata, da Paolo a Leo da Forlì, adesso non mi ricordo tutti, Tonio dalla provincia di Cremona, insomma i vari, moltissimi voi affezionati, bentornati anche da nome adesso Leonardo. Bene, io ringrazio tutti, sono tornata, sono qua, voi ci siete, quindi seguite come sempre l'appuntamento fino alle 22. Tra poco ci saranno gli ospiti, quindi cominciamo a parlare appunto dell'emergenza immigrazione, di questa polemica con la Gran Bretagna e poi anche del caso di Catania. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Così abbiamo aggiornato chi sta viaggiando, chi ascolta Effetto Notte viaggiando, molti invece stanno cucinando, chi già mezzo sonnecchia però ascolta, chi stira, chi fa qualsiasi cosa, passate parola che è iniziato Effetto Notte. E adesso, come tradizione, vi ricordo, se avete acceso la radio invece che puntualmente alle 21, un po' più tardi, vi ricordo tra poco quali sono le notizie principali della giornata e poi cominciamo ad approfondire alcuni argomenti. Direi che senz'altro oggi l'argomento centrale continua a essere l'immigrazione, con tutti i problemi e le polemiche legate a questo tema così delicato. Allora, le notizie principali. L'Unione Europea bacchetta Londra dopo le parole della ministra britannica e dice no ai muri, ci vogliono regole comuni sull'asilo. La cancelliera Merkel: c'è l'accordo sui migranti, bisogna aiutare l'Italia e la Grecia. E poi coniugi uccisi vicino a Catania, a Palagonia. Salvini dice che è colpa dello Stato, il PD reagisce dicendo che quello di Salvini è un atteggiamento schifoso e la figlia chiede Renzi ci spieghi, lo vuole vedere di persona. E poi l'Eni che corre in borsa, cioè questa naturalmente entusiasmo per la scoperta di un maxi giacimento di gas in Egitto. Intanto un'autobomba esplosa contro una sede dell'Eni, della compagnia, a Tripoli, e c'è, ci sarebbe la rivendicazione dell'ISIS. In Ucraina ancora scontri con i nazionalisti e caos, ci sono morti a Kiev, un centinaio di agenti e giornalisti tra i feriti. E poi ultimi colpi del calciomercato, Hernanes sarebbe pronto per curare la Juventus, poi sentiremo quali sono gli ultimi aggiornamenti. E poi il lutto nel mondo del cinema con l'addio al regista Wes Craven, maestro dell'horror. Quindi dicevamo che purtroppo ritorniamo con notizie molto simili a quelle con cui ci siamo lasciati a fine luglio. Nel Mediterraneo continua questa emergenza dei migranti. Ieri c'è stato un nuovo naufragio davanti alle coste libiche, almeno 37 per il momento sarebbero i cadaveri ritrovati sulle spiagge davanti a Coms, un centinaio di chilometri a est da Tripoli. E poi è stato annunciato nuovamente un vertice straordinario europeo, questo per il 14 settembre, sull'immigrazione. La Gran Bretagna intanto che fa? Getta un altro sasso nello stagno. Già aveva detto, vi ricordate, in qualche vertice passato Cameron, il primo ministro, che loro sì avrebbero dato magari finanziamenti aerei ma non avrebbero preso un solo immigrato. Adesso la ministra dell'interno britannica Theresa May ha scritto una lettera al giornale Sunday Times in cui annuncia un giro di vite sull'immigrazione in Gran Bretagna anche per quanto riguarda i cittadini europei, quindi anche persone dall'Italia, dalla Francia, da altri stati vanno verso la Gran Bretagna, che è sicuramente un luogo di grande attrazione per chi cerca di farsi un futuro professionale o di cambiare un po' frontiere. La ministra parla anche di una stretta contro gli studenti stranieri che restano in Gran Bretagna senza poi fare nulla dopo aver finito i corsi. Dice bisogna rompere questo legame tra lo studiare in Gran Bretagna e poi rimanere lì automaticamente. Pensate che le tre destinazioni più ricercate dai migranti sono Germania, Svezia e Regno Unito, per l'appunto, anche se in realtà poi più della metà delle domande d'asilo ufficiali nel primo trimestre del 2015 sono state presentate al primo posto in Germania, poi in Ungheria e poi al terzo posto c'è l'Italia. Comunque subito è arrivata questa bacchettata di Bruxelles nei confronti della ministra britannica, ci sono state dure critiche dall'Europa. Dice l'Europa: la libera circolazione dei cittadini europei è parte integrante del mercato unico, un elemento centrale nel suo successo. È intervenuta anche la Merkel, che oltre a dire bisogna aiutare assolutamente Italia, Grecia, i suoi paesi che si prendono più carico di questo esodo. Dice allora qui bisogna rivedere l'accordo di Schengen, qui ci vuole delle regole comuni. Cominciamo a parlarne con Leonardo Maisano. Buonasera Leonardo. Buonasera a voi. Corrispondente dalla Gran Bretagna del Sole 24 Ore. Quindi va avanti il governo britannico su questa linea piuttosto dura di chiusura nei confronti dell'immigrazione? È una linea, una posizione, perlomeno quella espressa da Theresa May, anche se in modo informale, perché è una lettera a un giornale, quindi non è una decisione del governo, certo. Esatto. Va letta comunque nel dibattito interno al Partito Conservatore, interno alla Gran Bretagna, sul rapporto con l'Unione Europea e quindi in vista del referendum che si terrà nel 2016-2017 più probabilmente sull'adesione o meno. Uno dei punti chiave sul quale il governo intende portare a termine un negoziato che gli lasci le mani più libere rispetto all'Europa è appunto il rapporto con gli immigrati. La posizione espressa dalla ME è una posizione quantomeno estrema, che non consentirebbe, che non avrebbe a mio avviso molta possibilità di successo all'interno dell'Unione Europea, perché inevitabilmente va a confliggere con le regole del mercato interno di cui Londra è paladina. Cioè, Londra è nell'Unione Europea solo ed esclusivamente per godere dei benefici e come dire, delle logiche di integrazione garantite dal mercato interno. Ora uno non può pretendere di partecipare alla condivisione dei servizi finanziari, ad esempio, o alla libera circolazione delle merci e pretendere invece di avere degli ostacoli sulla libera circolazione dei lavoratori. Questa è una posizione che l'Inghilterra avanza in chiave negoziale, sbatterà contro un muro, presumo, e quindi dovrà come dire, scendere a più miti consigli. Però ecco, questa fuga in avanti va letta esattamente in questo modo, a mio avviso. Ma secondo te, beh, probabilmente, insomma, se il governo è stato confermato, la gran parte della popolazione britannica è dello stesso parere? Quindi di chiusura nei confronti dell'immigrazione, di non certo. Grande affetto nei confronti dell'Unione Europea? I sondaggi, diciamo, più recenti e più consistenti danno che in caso di un referendum oggi sull'adesione o meno all'Unione Europea, la maggioranza, seppure di poco, degli inglesi è dei britannici è favorevole a rimanere all'interno dell'Unione Europea. Questo di poco, 52-48, se non sbaglio. Poi i sondaggi vengono fatti costantemente, quindi ci possono essere dei margini di errore, però questa era la tendenza. È chiaro che il governo britannico è il governo all'interno dell'Unione Europea che è più vittima dei populismi interni, cioè il governo britannico insegue l'UKIP, insegue le posizioni estremiste degli eurofobi, anti-europeisti e cerca in qualche modo di riguadagnare consenso su quel fronte, adottando politiche che vanno in quella direzione. Non c'è altro paese in Europa che vada così marcatamente in quella direzione. Grazie Leonardo Maisano. Grazie. Ciao Leonardo. E di questo continuerei a parlare con il professor Edoardo Greppi, docente di diritto dell'Unione Europea e di organizzazione internazionale all'Università di Torino. Professore Greppi, buonasera. Buonasera. Quindi ha sentito dell'annuncio, certo per il momento, quindi c'è Leonardo Maisano soltanto in una lettera a un giornale della ministra degli esteri, però è già un annuncio, non è che un rappresentante del governo dice così le cose a vanvera tanto perché gli sono venute in mente in quel momento, no? Quindi intanto è possibile, cioè è nel diritto della Gran Bretagna prendere eventualmente una decisione di questo tipo, cioè di mettere degli argini ulteriori all'immigrazione anche di cittadini europei, visto che ci sarebbe l'accordo di Schengen, che è quello della libera circolazione in Europa dei cittadini. Tra l'altro, insomma, la Gran Bretagna aderisce ufficialmente a questo trattato di Schengen? Dunque, io sono ovviamente d'accordo con quanto ha detto prima il dottor Maisano, che ha messo a fuoco l'elemento centrale, cioè che queste affermazioni del ministro dell'interno britannico vanno a toccare uno dei principi cardine dell'integrazione europea, la libera circolazione delle persone, che a suo tempo era stata concepita dal Trattato di Roma in chiave essenzialmente economica, la persona come fattore produttivo, quindi libera circolazione essenzialmente dei lavoratori, e che via via, grazie a un'evoluzione normativa molto significativa e grazie alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, si è andata allargando fino alla liberalizzazione più estesa. Toccare quello vuol dire toccare veramente i fondamenti dell'integrazione europea e i fondamenti del mercato unico. Trovo particolarmente stravagante che il ministro faccia riferimento, almeno da quello che ho guardato, anche delle parole che ha adoperato, parla a un certo punto di migranti dell'Unione Europea. Ora, il signor ministro britannico forse bisognerebbe che avvicinasse questi temi con un'altra, da un'altra angolatura, cioè non parliamo di migranti dell'Unione Europea, non sono migranti, sono cittadini dell'Unione Europea che godono di tutti i diritti introdotti dalla cittadinanza europea nell'ordinamento dell'Unione, e tra questi il diritto di circolare, soggiornare liberamente, eccetera, eccetera, a sua volta diritto sancito nei trattati e regolato da una grandissima quantità di norme di diritto secondario dell'Unione, quindi di norme che affrontano praticamente tutti i vari aspetti della libertà di circolazione e di soggiorno. Quindi sotto questo profilo parlare di migranti dell'Unione mi pare quantomeno, ripeto, stravagante. Mette insieme tutta una serie di cose diverse. Certo, il Regno Unito non aderisce agli accordi di Schengen, però è vincolato da tutto il resto del corpus delle norme del diritto dell'Unione su questa materia. Le norme si possono cambiare, certo, loro, gli inglesi rivendicano il diritto di chiedere di modificare alcune norme, bene, questo si può fare, ma trovo ancora più stravagante che si parli dell'Unione Europea come di un'entità terza. In queste dichiarazioni del Ministro si parla del Regno Unito da una parte e dall'altra parte dell'Unione Europea. Lo trovo un pochettino stupefacente, perché il Regno Unito, almeno fino a un eventuale esito negativo di un referendum sull'appartenenza all'Unione, appartiene all'Unione, quindi non si tratta di negoziare con un'entità terza. Il Regno Unito è a tutti gli effetti uno Stato membro dell'Unione. Poi, per carità, la politica è l'arte del possibile, quindi è anche ogni evoluzione può incidere poi sulle scelte di adozione di norme diverse, ma fin tanto che le norme sono queste e ripeto, costituiscono uno degli elementi fondanti dell'Unione Europea, mi sembra difficile che si possa ammettere che uno Stato unilateralmente si svincoli da obblighi molto precisi. Siamo un'Unione Europea governata dal diritto e sulla quale vigila una Corte di Giustizia che è un formidabile elemento di integrazione a sua volta. Quindi finché la Gran Bretagna sta all'interno di un'Unione Europea si deve adeguare alle regole. Tra l'altro poi cercheremo di capire anche quando la cancelliera Merkel, oltre a bacchettare la Gran Bretagna, dice qui c'è un problema di redistribuzione, bisogna aiutare assolutamente l'Italia, la Grecia e altri paesi che si prendono carico, soprattutto il nostro in particolare, bisogna vedere fino a quando le parole resteranno parole e poi si riuscirà a concretizzare qualcosa effettivamente, professore. Certo, ma questo è l'altro versante, ed è il versante dell'immigrazione vera e propria, dei rifugiati, eccetera, che sono, diciamo, oggetto di un discorso normativo diverso. Quanto ha affermato qualche giorno fa la cancelliera Angela Merkel, parlando di umanità, solidarietà e principi e valori alti, mi è parso il discorso di uno statista, ecco, a fronte di tanti discorsi, per usare la ormai abusata distinzione tra statista e politico, ecco, penso che in questa fase di integrazione europea e su questi temi si veda quotidianamente quanto l'Europa sia ricca di politici e quanto sia povera di statisti. Ecco, il discorso della signora Merkel dell'altro giorno è un discorso da statista. Ha volato alto, che ha richiamato principi essenziali all'integrazione europea, che ha richiamato anche le motivazioni profonde per le quali gli stati europei, dopo due guerre devastanti nel Novecento, hanno deciso di incamminarsi su un cammino di integrazione così profonda. Grazie professor Greppi, buona serata. Grazie a lei, buonasera. Grazie professore. Europa 24 notte. E sempre sulla questione dell'annuncio della ministra britannica, sentiamo Antonio Tajani, vicepresidente del Parlamento europeo, responsabile per la sicurezza e il dialogo interreligioso, al microfono di Anna Marino. Purtroppo l'Europa si sveglia in ritardo. Quando noi dicevamo che l'emergenza non riguardava soltanto l'Italia, ma era un'emergenza europea, tutti quanti facevano finta di non vedere quello che accadeva. Oggi, di fronte alla drammaticità dei fatti, a quello che succede in Siria, quello che succede in Israele, Palestina, quello che succede in Nord Africa, quello che succede in Iraq, in Libia, in Nigeria, il fenomeno è diventato veramente mondiale e non so se è sufficiente l'intervento dell'Unione Europea, forse a questo punto serve invece un intervento delle stesse Nazioni Unite che coinvolga, oltre all'Unione Europea, anche gli Stati Uniti e la Russia. Il fenomeno migratorio diventa mondiale. Ci sono i primi passi verso questo vertice europeo e Londra dice no ai disoccupati addirittura dell'Unione Europea. Penso che è una scelta egoistica della Gran Bretagna. Alla fine si renderà conto che sta commettendo un grave errore, perché non può fermare i fenomeni migratori rinchiudendosi in se stessa. Poi c'è appunto il problema delle frontiere esterne. Io sono reduce da una missione in Bulgaria, ieri sono stato 2 ore a parlare con il primo ministro Borisov proprio del problema delle frontiere esterne. Servono più investimenti da destinare ai paesi che hanno, come l'Italia, la Grecia, Malta, la stessa Francia e la Spagna, frontiere esterne europee. Sì, le regole ci sono, vanno rispettate. Londra fa parte dell'Unione Europea, non può utilizzare i fondi europei quando le fa comodo e poi quando invece deve assumersi le proprie responsabilità fa orecchie da mercante e si rinchiude nel proprio egoismo. Sta commettendo un grave errore, lo stesso che ha commesso in passato Hollande nei confronti dell'Italia. La Francia socialista certamente non si è dimostrata solidale. Ecco perché serve un'azione coordinata a livello di Unione Europea, con un'azione forte anche delle Nazioni Unite, perché quello che accade nei Balcani, quello che accade in Libia non può essere soltanto risolto con interventi a breve termine. Serve una strategia che permetta di fare investimenti più forti nei paesi dove provengono gli immigrati, che serva a tutelare le vite umane, che serva a realizzare campi di accoglienza in Libia, serve un'azione forte anche in Nigeria per fermare Boko Haram. Ricordiamoci che oltre agli immigrati ci sono migliaia e migliaia di rifugiati politici, ci sono i cristiani che rischiano di essere crocifissi in Siria e in Iraq. Sono delle emergenze, quindi serve una strategia articolata e che sia globale. Per quanto riguarda Roma, c'è un rilancio del diritto d'asilo, secondo lei? Sì, il diritto d'asilo è chiaro che deve essere rinforzato, deve essere verificato, ma non possiamo non farci carico, insisto, dei cristiani perseguitati in Medio Oriente e in Africa. Quelli sono la minoranza cristiana che subisce delle violenze inaudite, che viene spesso trucidata, come capita in Nigeria, ha bisogno di essere tutelata. L'Europa deve difendere i suoi valori, deve difendere anche le proprie radici cristiane, lo deve fare anche al di là dei confini dell'Unione Europea. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Intanto ringrazio per i vostri messaggi, continuano ad arrivare Alessandra da Milano, Daniele da Latina, Susi e molti altri. A proposito invece delle vostre opinioni, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche al 349-238-6666 sulla questione immigrazione, Salvatore da Genova dice: sono d'accordo che gli immigrati devono essere aiutati, perché non è bello che ogni ora possa essere colpito da una bomba sopra la testa. Sono però d'accordo che non solo l'Europa debba occuparsene, ma tutto il mondo, cioè divisi, dice, un po' per tutto il mondo. Poi Max: secondo me dopo questi annunci bisogna boicottare la Gran Bretagna anche come meta turistica, dice. Mentre un messaggio di tutt'altro tipo, all'opposto: fanno bene gli inglesi, dice questo ascoltatore o ascoltatrice, gente seria e pragmatica che fa un grande popolo. Direi di prenderci questa piccola pausa come sempre, poi dopo parleremo della vicenda, della cronaca di vicino Catania e anche col direttore del Cara di Mineo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, abbiamo ricominciato questa nuova stagione di Effetto Notte, in particolare questa sera stiamo parlando dell'emergenza immigrazione che si è aggravata durante l'estate, naturalmente anche per il bel tempo, e poi con le polemiche che ci sono in corso dopo l'annuncio della ministra dell'interno britannica, che ha detto che vogliono restringere ulteriormente i cordoni per i migranti anche europei, cioè anche per i cittadini europei stessi che vanno magari lì a studiare e poi vogliono trovare un lavoro, oppure si muovono semplicemente dal nostro paese, da altri paesi europei, per provare a fare un'esperienza professionale in Gran Bretagna. E poi però la questione immigrazione si lega nelle ultime ore anche a questo terribile fatto di cronaca che è avvenuto vicino Catania. Però come sempre, se avete appena acceso la radio, ricordatevi che Effetto Notte inizia alle 21, vi ricordo quali sono le notizie principali di oggi. L'emergenza immigrazione, vertice europeo straordinario il prossimo 14 settembre, e la Merkel dice l'Italia va aiutata. La coppia uccisa in Sicilia, la rabbia della figlia che dice Renzi ci chieda scusa, e ne parleremo tra pochissimo. Leni corre in borsa, euforia per la scoperta di un maxi giacimento di gas in Egitto. Per il cinema lutto, è morto il regista Wes Craven, il papà dell'horror e di Freddy Krueger. Per il calciomercato, conto alla rovescia, alle 23 si chiude. Ricordate, disse Salvatore Buzzi, il boss delle cooperative rosse coinvolto da protagonista insieme a Massimo Carminati nell'inchiesta di Mafia Capitale, disse: se parlo di Mineo casca il governo. Per Mineo intendeva il CARA di Mineo, che è il centro d'accoglienza per migranti più grande d'Europa, e aveva offerto ai magistrati romani, dopo aver lanciato questo anatema, di fare delle dichiarazioni purché spegnessero il registratore. Poi invece questa richiesta è stata respinta al mittente. Continuano ad esserci indagati, l'inchiesta va avanti, ci sono anche dei politici coinvolti in questo scandalo del CARA di Mineo, perché era diventato, pare, insomma, secondo l'inchiesta, c'era del business legato ai migranti. Ora si torna purtroppo a parlarne in negativo, a parlare del CARA di Mineo, per quell'orribile fatto di cronaca che riguarda la coppia di coniugi uccisi ieri nella loro villetta di Palagonia, che è un grosso centro agricolo nella piana di Catania, e sembrerebbe che il colpevole sia un migrante ivoriano, un diciottenne, che appunto era accolto nel CARA di Mineo, e probabilmente, secondo gli inquirenti, ci sarebbero anche dei complici. Ci facciamo prima riassumere brevissimamente da Francesca Ieri Rinella, che è giornalista del Giornale di Sicilia, un po' la vicenda. Francesca, poi ritorniamo con te, perché tra poco c'è anche il direttore del CARA di Mineo. Francesca, buonasera. Sì, buonasera. Quindi è vero, si fanno... Allora, sì, prego. Sì, le indagini della polizia partono proprio dal ritrovamento davanti al CARA di Mineo, durante un sopralluogo, di un telefono cellulare, di alcuni dispositivi portatili, tra cui una videocamera e un PC portatile, in un borsone che un immigrato tenta di entrare al CARA di Mineo. Da lì i controlli incrociati di polizia e tabulati telefonici, l'immigrato, che è un cittadino ivoriano di 18 anni, arrivato a Catania lo scorso 8 giugno a bordo di una nave inglese in uno degli ultimi sbarchi, non sa giustificare la provenienza del telefono. Carabinieri e polizia fanno le dovute indagini e risalgono all'intestinario della scheda telefonica. Compongono l'ultimo numero di cellulare, che è quello della figlia, quella che poi si rivelerà la vittima, chiamano, vanno nella villetta di via Palermo a Palagonia e fanno la tragica scoperta. L'uomo è stato sgozzato, no? E la donna buttata dal balcone. E la donna precipitata giù dal balcone. I poveracci, che poi erano ritornati da non molto, no? In Italia, per godersi un po' la pensione. Francesca, poi ritorniamo dopo, però appunto volevo coinvolgere Sebastiano Maccarone, che è direttore del CARA di Mineo. Buonasera, Maccarone. Sì, buonasera. Io la ringrazio moltissimo, tra l'altro, perché in frangenti come questi era più facile che lei dicesse di no anziché sì, invece diciamo si è preso un po' la briga di rispondere, e la ringrazio. Senta, come mai questo centro di Mineo, il CARA di Mineo, è così un po' nell'occhio del ciclone da un po' di tempo? Beh, purtroppo le vicende giudiziarie sono un po' sotto gli occhi di tutti su quello che è successo. Per quello che posso assolutamente affermare, io come direttore del centro noi ci occupiamo solo ed esclusivamente della gestione, della mera gestione dell'esecuzione dei servizi all'interno del CARA, e per quello che insomma rispondiamo i migranti all'interno del CARA vivono in una condizione di assoluta dignità e rispetto della persona. Dico, quindi noi ci sentiamo totalmente estranei ai fatti di natura giudiziaria. Noi siamo i meri operatori, siamo coloro i quali debbono comunque continuare a gestire la struttura con i dipendenti, con i nostri mediatori culturali, con il nostro staff di professionisti e tutto ciò che è necessario per, diciamo così, tenere in piedi una struttura così complessa come insomma più volte è stato detto, una struttura che attualmente ospita circa 3.080 persone e che dall'apertura ad oggi di questo centro sono transitate all'incirca 18.000 persone, quindi dal 18 ottobre del 2011 ad oggi, insomma, un buon considerevole numero di richiedenti asilo. Ma Carone, ci spiega quindi, lei ha detto si occupa prettamente della gestione dei servizi, come funziona? Perché sentiamo, ecco, magari riusciamo a sentire la voce della figlia dei coniugi uccisi, Rosita Solano, che dice è colpa dello Stato e chiede anche più controlli, più sicurezza. Sentiamola. È lo Stato che li porta qui, che li accoglie, che non fa controlli, perché se questi sono in accoglienza devono avere i metal detector controllati, escono, entrano controllati in orario, non che escono, entrano quando vogliono e con la refurtiva. E per caso un poliziotto in gamba, e ammiro e faccio i complimenti a questo poliziotto che si è accorto, perché sennò quando lo trovavo mio padre? Quando? Invece della mattina lo trovavo a mezzogiorno, perché a mezzogiorno ci si sente in famiglia. Macaroni, quindi diceva la figlia di queste povere persone, più controlli, entrano e escono con anche la rifurtiva. Come avviene la possibilità di entrare e di uscire durante la giornata, per esempio, o la sera? Innanzitutto io vorrei porre le mie più sentite condoglianze alla signora. Mi associo assolutamente al suo dolore e sicuramente alla rabbia, che ovviamente non è innegabile. Per quanto riguarda la gestione del centro, il centro d'accoglienza è proprio un centro di accoglienza per richiedenti asilo, pertanto non è un carcere, non è una struttura chiusa. Insomma, giuridicamente il governo italiano predispone queste strutture proprio nell'attesa, per persone indigenti, nell'attesa del completamento del loro iter procedurale per l'ottenimento dei documenti come richiedenti asilo. Pertanto, come tali, queste persone vengono gestite, cioè non c'è un limite, diciamo così, una limitazione della libertà personale. Purtuttavia, dico, questo fatto ci ha sconvolto tutti, cioè siamo veramente allibiti per quello che è successo. Nessuno mai di noi si poteva aspettare un qualcosa del genere. Le indagini sono ancora in corso, dico, è chiaro, insomma, che se ci sono dei colpevoli, a prescindere dal loro colore della pelle, vanno assolutamente condannati, perseguiti, e fare in modo che questi efferati delitti non accadano più. Ovviamente il centro d'accoglienza, così come tutti gli altri centri d'accoglienza d'Italia, è predisposto per erogare servizi di integrazione, ma è chiaro che un fatto di questo, insomma, poi alla fine purtroppo lascia un po' cadere, ed è un durissimo colpo per noi gestori del CARE, che abbiamo fatto parecchio per creare integrazione sociale, per coinvolgere il territorio, insomma, in una gestione condivisa di immigrati nel CARE di Mineo, perché, proprio per non essere fini a se stessi, proprio per non essere, diciamo così, tenuti in un contesto, diciamo così, solo del centro. C'è stata un'apertura da parte di tutto il territorio in una accoglienza di questi profughi, di questi ragazzi disperati. Oggi un fatto di questo genere ovviamente fa rimbalzare, fa fare parecchi passi indietro nei percorsi di integrazione e di condivisione con il territorio, e sforzi, mi creda, sono stati fatti parecchi, sia da parte nostra che da parte delle comunità locali. Sebastiano Macaroni, io la ringrazio della disponibilità questa sera, non è un momento facile, le auguro buon lavoro, anche perché proprio è molto delicato il suo lavoro. Grazie, buona continuazione. Grazie a lei, grazie. Grazie. Adesso aggiorniamo chi sta viaggiando, poi ritorniamo con la giornalista del Giornale di Sicilia, proprio ci aggiorniamo sugli ultimi sviluppi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie principali ormai le avete sentite più volte con effetto notte, ma qualcuno ogni tanto ritarda, sapete, sempre la questione dell'emergenza immigrazione in primissimo piano, con l'Unione Europea che bacchetta Londra, dice no ai muri, ci vogliono regole comuni sull'asilo, e la Merkel dice c'è l'accordo sui migranti, bisogna aiutare l'Italia e la Grecia. Stiamo parlando dei coniugi uccisi a Palagonia vicino Catania, tra poco ci ricolleghiamo con la giornalista del Giornale di Sicilia, e poi Leni che corre in borsa perché c'è euforia per la scoperta di un maxi giacimento in Egitto di gas. Ci sono ancora scontri purtroppo in Ucraina con i nazionalisti, e caos, ci sono morti e feriti, e poi gli ultimi colpi del calciomercato, sul quale ci aggiorniamo tra poco. Però ritornando con Francesca ieri, Rinella, appunto corrispondente del Giornale di Sicilia, quali sono gli ultimi sviluppi su questa vicenda dei coniugi uccisi a Paragonia? Mi sembra che, a parte il 18enne che è stato fermato proprio per gli elementi che spiegavi tu, no, di questo cellulare, questo PC che sono stati ritrovati in suo possesso, mi pare che gli inquirenti siano piuttosto propensi a pensare che ci fossero dei complici. Assolutamente sì. Dati dal punto di vista investigativo non ce ne sono, cioè nel senso che non ci sono grandi aggiornamenti, se non che l'omicidio, il duplice omicidio, potrebbe essere avvenuto tra mezzanotte e le due di sabato notte, mentre i due coniugi erano rientrati a casa dopo essere stati a casa di familiari e stavano dormendo. In questo momento sono in corso le autopsie sui cadaveri dei due, di Vincenzo Folano e di Mercedes Ibanez, e chiaramente la squadra mobile e gli agenti del commissariato di polizia di Caltagirone indagano perché credono che il cittadino extracomunitario ivoriano dal fisico esile non possa aver agito da solo. Quindi è caccia ai complici. Proprio per l'efferatezza, no, di come è avvenuto, sì, questo delitto. Assolutamente sì. Francesca, per chiudere, tu che stai seguendo questo caso e quindi sei più volte sul posto, che clima è raccolto da parte delle persone, dei cittadini che abitano lì vicino e al Cara di Mineo? Qual è la situazione? Orrore, dolore e rabbia sicuramente. Oggi per caso ero al supermercato e ho raccolto le testimonianze di alcune persone che facevano la spesa. La gente ha paura e dice che non vuole né i migranti né il Cara. Un clima di odio che purtroppo sembra essersi alimentato a causa della triste vicenda. Grazie Francesca. Nei prossimi giorni è probabile che ci siano, insomma, possibili altri sviluppi. Francesca Ieri Rinella, io intanto ti ringrazio e poi, se sei disponibile, appunto, ci sentiamo nei prossimi giorni. Allora, grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Buon lavoro. Prima di aggiornarci sul calciomercato, adesso cambiando e alleggerendo un po' sugli argomenti, ringrazio Alessandro da Lussemburgo perché Effetto Nota è una trasmissione internazionale, ascoltata in tutto il mondo, scrivono veramente da tutti i paesi, perché basta anche collegarsi con internet e ci si aggiorna su quello che succede, soprattutto chi è magari un emigrato, appunto, a proposito di immigrati o di migranti all'estero. Ringrazio Tonio dalla provincia di Cremona e tutti gli altri, anche sulla pagina Facebook di Effetto Nota, a proposito dell'argomento immigrazione. Vela dice: l'Europa sta pagando il conto di centinaia di anni di sfruttamento nel continente africano. Maurizio, a casa devono essere aiutati a casa loro. Rosanna, se non ci fosse il business delle cooperazioni non ce ne sarebbe così tanti che arrivano da noi, la mafia in Italia si diverte. Claudio, non è possibile che i migranti arrivino in Italia da tutte le parti e molti perdono la vita, è una situazione tragica e senza via d'uscita, non vedo alcuna soluzione del problema, è tutto paralizzato. E poi Alessandro, i nostri politici, la cosiddetta classe dirigente, di fronte a questo tema hanno sicuramente fatto la figura degli ignoranti, cioè di non conoscere, di non aver capito forse il problema, di averlo capito troppo tardi. Dario Ricci. Eccoci, caro Dario. Cara Roberta, ben ritrovata. Ben ritrovato anche a te, caro Dario. Continueremo a fare coppia spesso. Finalmente, caro Dario. Del tuo amato calcio. Quanto ci siamo mancati. Del mio amatissimo calcio, diciamo, in che io senso? Sono pronto con una spilza di nomi di cui si fanno acquisti e vendite. Un po' fatica a mettere a fuoco le generalità, gli appassionati. Dice, lo saprà. Parliamo allora agli addetti ai lavori, caro Dario, perché Dario, lo sapete, che è sfegatato tifoso di calcio, grande anche competenza e professionalità, ci dirà quali sono, così ce lo uniamo a vicenda e me lo tengo buono, Dario, e quali sono le ultime mosse del calciomercato, visto che tra più o meno un'ora si chiude. Un'ora e quattro minuti, bisogna essere precisi, perché i contratti depositati alle 23:01 non varranno, quindi è un vero e proprio conto alla rovescia. Allora andiamo subito. Chi si è comprato di buono? Chi si è comprato qualcosa di... Allora, come lo è stata un po' per tutta l'estate, Inter protagonista anche in quest'ultima giornata, perché dal Galatasaray sono arrivati Felipe Melo, che era fin dall'inizio uno degli obiettivi per il centrocampo nerazzurro, ma anche Alex Telles, che è un prezioso terzino sinistro brasiliano. E poi l'Inter ha acquisito dalla Roma anche Ljajic, l'attaccante che va appunto a rimpolpare il reparto avanzato nerazzurro. In uscita anche un nome clamoroso per quanto riguarda i nerazzurri e soprattutto la sua destinazione, perché Hernanes, centrocampista dell'Inter, va alla Juventus, che così trova il suo fantasista a titolo definitivo, cioè Hernanes si trasferisce definitivamente, contratto fino al 2018, 11 milioni di euro di investimento, 2,7 milioni all'anno al giocatore. Juventus che prende in prestito dal Marsiglia anche l'altro giovane centrocampista talentuoso, Lemina. La Lazio prende in prestito dal Milan Matri e quindi mette a posto l'attacco. Milan che sta facendo un ultimissimo tentativo per Witzel, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, ma molto difficile questa pista, così come ancora aperta e altrettanto difficile è la trattativa tra Sampdoria e Napoli per il passaggio di Soriano dai blu cerchiati ai partenopei. Si è mossa bene anche la Fiorentina, che porta in Italia Błaszczykowski, centrocampista polacco del Borussia Dortmund, e qui Roberta ti sfido a scrivere il nome di questo giocatore, perché non fare lo spiritoso, come si chiama? No, per Błaszczykowski, ma dirlo è facile, ma prova veramente, in quel mare di consonanti ci sono uno o due vocali, quindi è veramente adesso non abbiamo però più tempo per consonanti, caro Darurici, però c'è tempo allora, ancora solo per consolarmi circa, fatto il tempo. Circa un'oretta ancora per fare acquisti e spendere soldi, a volte inutilmente. Io sono molto critica, litighiamo dietro le quinte con Dario Ricci. Grazie Dario, noi ci risentiamo tra poco.